Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Durante l'inno nazionale faccio una lenta panoramica e i miei occhi cadono su quelli a mandorla di un bambino accanto a me. Mi fissa in modo inquisitorio. È figlio di vietnamiti. Li guardo a sorpresa e penso che è incredibile come quell'assurdo conflitto, le bombe, gli elicotteri, i morti, nulla di tutto questo pare abbia tolto a questa gente la voglia di diventare americani. Sono Gabriella Belloni, abito a Roma e il mio motto di vita è, come un po' l'americana, don't fence me in, non mi far sentire recintata, quindi sono single, amo la mia libertà e penso che la solitudine è un lusso che mi sono guadagnata nel tempo. La cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 9, legge 91, 5 febbraio 92 e successive modifiche, può essere concessa a... allo straniero del quale il padre o la madre o uno dei discendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, oppure che è nato nel territorio della Repubblica e in entrambi i casi vi risiede legalmente da almeno 3 anni. B. Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivi all'adozione. C. Allo straniero che ha prestato servizio anche all'estero per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano. E poi D. Al cittadino di uno Stato dell'Unione Europea che risiede legalmente da almeno 4 anni in Italia. E all'apolide o al rifugiato che risiede legalmente da almeno 5 anni in Italia. ABCD e FG, non li ho segnati, quindi G, allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano. 800240024 oppure 349-238-6666, ma meglio alzate il telefono e se siete diventati cittadini italiani 800240024 e ce lo raccontate. Che cosa avete dovuto fare? Che tipo di richieste? Che tipo di documenti? Da quanto eravate qua? Come vi sentite? Se c'è un modo di sentirsi diverso da prima, da quando siete diventati cittadini italiani. Al telefono, in diretta, qui, a voi siete qui, 800240024. Buongiorno a tutti. Questa è Radio 24, lo è stata anche prima, nonostante un piccolo problema, è ritornato ad esserlo adesso più che mai. Io sono Matteo Caccia, buonanotte, il programma si chiama Voi Siete Qui. Il programma di oggi parla della storia di Gabriella, che quando aveva 20 anni, quando aveva 20 anni se n'è andata dall'Italia ed è andata negli Stati Uniti e ha chiesto cittadinanza lì, è diventata una cittadina americana. Parla esattamente di quel momento, del momento in cui è fuggita e un attimo dopo, diciamo temporalmente anni dopo, ma nel racconto un attimo dopo, si trova lì in questa hall, in questo municipio, ce lo dirà meglio lei, a Los Angeles e fa quello che è il giuramento per diventare una cittadina degli Stati Uniti d'America. Se siete, ripeto, stranieri, avete richiesto e ottenuto cittadinanza italiana, ma anche se siete italiani e avete ottenuto cittadinanze estere per diversi motivi, perché vi serviva per lavoro, perché preferivate avere un altro passaporto, qualsiasi sia il motivo, 800240024. Questa puntata ci ha veramente aperto degli orizzonti. Concessione della cittadinanza, ad esempio, lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, può dichiarare di volere eleggere la cittadinanza italiana entro un anno suddetto dalla data. Dalla suddetta data. Da quale data? Dal 18° anno, immagino. Tale dichiarazione di volontà deve essere resa dall'interessato all'ufficio di stato civile del comune di residenza. Ripeto, oggi si parla di cittadinanza. Se l'avete chiesta in giro, se l'avete chiesta qui in Italia, come avete fatto, perché? Tutto l'iter che vi ha portato ad essere dei cittadini italiani o altrimenti anche dei cittadini stranieri. 800240024 oppure, se volete mandare un sms, 349-238-6666. So che in questo caso, nel caso di Gabriella, poi lei ce lo racconterà meglio, l'iter per diventare cittadini americani è diventato molto complicato. Devi chiedere la carta verde, non sempre la puoi ottenere. Io ho un amico però che ha vinto la lotteria della carta verde, per cui vai su un sito online, inserisci i tuoi dati e se viene estratto vinci la green card. Che mi ha sempre fatto un po' sorridere il fatto che gli americani pensino che diventare cittadino americano sia come vincere la lotteria. Cioè, che probabilmente per molte persone è vero, no? Perché probabilmente per persone che stanno in paesi particolarmente disagiati, particolarmente disagiati, intendo. E gli Stati Uniti sono un luogo che è un luogo ideale da raggiungere, e quindi probabilmente essere estratti è come vincere alla lotteria. Ma tant'è, è un po' l'idea che si ha di sé, che si ha del proprio stato e di quello che si è. E indubbiamente l'idea che loro hanno di se stessi è indubbiamente molto alta. 349-238-6666, ripeto, ma soprattutto 800240024 per chiamare in diretta e raccontarci come avete preso la cittadinanza italiana, o altrimenti, se siete italiani, come avete preso cittadinanza estera. Questa è la storia di Gabriella. È il 1980. Sono passati 10 anni da quando atterrai a New York City con 2 sacche militari, un biglietto di sola andata e il cuore pieno di speranza. Mentre mi incammino per la scalinata di marmo che sale su per il Music Center di Downtown Los Angeles, il tuono costante del traffico di fine settimana che ingorga le freeways penetra aggressivo l'aria tutta intorno. È un venerdì pomeriggio. Il sole è così pallido che i suoi raggi sembrano intrappolati dietro una barriera di smog. C'è una folla davanti all'Amazon Theater e mentre mi avvicino, pian piano mi confondo tra la folla multiraziale e divento una di loro. Divento un emigrante. La mia passione per gli Stati Uniti è nata fin da bambina, quando ho sentito per la prima volta la voce di Elvis Presley e ho cominciato ad amare appassionatamente il rock. Mentre entriamo, ci vengono date delle piccole bandierine di carta che i ragazzini cominciano a sventolare. Sono emozionata come una bambina alla quale viene fatto il regalo dell'adolescenza perenne. Il giudice appare e ci dà il benvenuto nella nostra nuova patria. Insieme a lui ripetiamo la formula e con la mano destra sul cuore giuriamo di difendere la Costituzione degli Stati Uniti d'America contro tutti i nemici, e che Dio ci aiuti. Durante l'inno nazionale faccio una lenta panoramica. I miei occhi cadono su quelli a mandorla di un bambino accanto a me. Mi fissa in modo inquisitorio. È figlio di vietnamiti. Mi guardo sorpresa e penso che è incredibile come quell'assurdo conflitto, le bombe, gli elicotteri, i morti, nulla di tutto questo pare abbia tolto a questa gente la voglia di diventare americani. Il passato mi travolge come un'onda e la mente mi riporta indietro nel tempo. Sono alla stazione Termini, a Roma. È il 1970. Sto correndo con la paura di perdere il mio treno che mi porterà oltreoceano. I poliziotti mi guardano con sospetto. L'aria è impregnata di paranoia. Ho talmente tanta rabbia che se non scappo sparo. Ho un esaurimento nervoso. Mando giù 7 pillole al giorno. Ho appena 20 anni, ma non vedo speranza. Mi hanno detto che a una come me la buona sorte può regalare un posto fisso, un marito, dei figli e una pensione. E io ho detto no grazie. C'è un altro posto per me e devo andare a trovarlo. Io non voglio vivere una vita senza sogni. Costi quel che costi. Io sono andata negli Stati Uniti perché è un paese che ti dà la possibilità del sogno, di sognare. Io non ho rimpianti perché le mie scelte le ho fatte a 20 anni e sono contenta di averle fatte a 20 anni. Ho rifiutato a 20 anni l'idea della pensione, del posto fisso, del marito, dei figli, e quindi ho preso il sentiero dell'avventura con tutte le sue gioie e le sue sconfitte. Ma mi piace e continuo a seguirlo. Ora sono sul treno che ho raggiunto con un salto, buttando dentro la mia vita raccolta in 2 sacche. Mi affaccio al finestrino e in lontananza riesco a intravedere le 2 figure che si affrettano verso i binari: mia madre e mia sorella. Come avevo previsto, la mia fuga non ha saluti con la manina. Mamma piangerà, ma quello che importa è non rimanere intrappolata qui. Il viaggio è lungo. Dovrò arrivare a Lussemburgo e poi prenderò un aereo della Icelandic e con $150 sarò a New York City. E mentre la vecchia Europa scorre davanti ai miei occhi, velocemente, il mio cuore si alleggerisce al pensiero che finalmente sarò libera, come voglio, per tutto il tempo che voglio, di inventarmi. Where the road is dark and the seed is sown, where the gun is cocked as the bullets cold. One sunny morning we'll rise, I know, and I'll meet you farther on up the road. A me Gérard Depardieu è sempre piaciuto come attore, anche se è un po' troppo francese. Fa tutte quelle smorfie e tutto quel vino, ovviamente. Poi sbuffa sempre, no? Come fanno i francesi, ma... Più che altro i parigini. Di certo non è uno che passi inosservato, Gérard Depardieu, però... Vabbè, diciamo che in assoluto preferisco Christian Bale come genere. E quando qualche settimana fa ho deciso, lui ha deciso, di andare a vivere in Belgio e poi in Russia addirittura, pur di non pagare le tasse in Francia, non è che abbia proprio aumentato le sue quotazioni ai miei occhi. Però poi ci ho pensato meglio e, a parte il fatto che lui lo facesse per evitare controlli fiscali, è anche vero che la cittadinanza non dovrebbe essere una prigione, no? Cioè non è che siccome uno nasce in Francia da genitori francesi, allora debba per forza essere cittadino francese tutta la vita. Va bene, ok, lo so che sto dicendo cose che non so benissimo, però è vero che se fosse così, allora, che so, Billy Wilder o Andy Warhol, ma anche Metallica, non avrebbero potuto diventare americani, ad esempio. E invece, a un certo punto della loro vita, hanno deciso di andare a vivere in un altro stato. O perché i nazisti li ammazzavano, o perché semplicemente ci avevano voglia di andarci. E sono andati, sono stati accolti. E sono stati accolti in un posto di cui sono diventati dei cittadini. Perché la cittadinanza si può conquistare, quindi si può anche perdere, si può anche rinunciare. A me piace l'idea che uno straniero voglia diventare cittadino italiano perché gli piace come si vive qui. Vuole lavorare e pagare le tasse qui. Vuole avere gli stessi diritti e gli stessi doveri che abbiamo noi, qui. E allo stesso modo mi piace pensare che un italiano o un'italiana come Gabrielle possa decidere di diventare cittadina americana perché dell'Italia non ne vuole più sapere. Perché non ci vuole stare più, perché preferisce un altro stile di vita, o anche solo perché una mattina si è svegliata e ha deciso così. Con l'America poi è più facile perché è nata proprio con l'immigrazione e quindi per molti anni ha accolto gente da tutto il mondo. Ed è successo perché è una nazione giovane, ovviamente. Adesso è un po' diverso, le sue frontiere sono molto più chiuse, quasi come le nostre, ed è un peccato secondo me. Ci sono cose che non si possono scegliere, come i propri genitori o le proprie radici, ma altre che invece sì, come gli amori, il luogo dove vivere, le persone di cui circondarsi. Mi piace pensare che si possa anche decidere di che comunità fare parte e con chi condividere le fatiche e le gioie di fare le cose insieme. Come Said, il più famoso di tutti gli ambulanti di Torino, che per 20 anni ha fatto compagnia a chi entrava in università e l'anno scorso è finalmente diventato cittadino italiano. City sullo decanche Nueva York, limbo disperato la Nueva America. Tanti minuti, tante speranze, speranze d'ambroche, l'entrata per la piramide malefica. Fabio mi fa notare che solo Lars Ulrich dei Metallica non era americano, gli altri lo erano tutti. E poi facciamo così, lo leggo questa volta e poi più, altrimenti ho la sensazione che ci si stia allargando, perché dico sempre, vabbè, non faccio i saluti, però adesso, visto che mi avete mandato sto messaggio, ti ascoltiamo sempre, ci mandi un saluto, le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta. E con questa l'abbiamo fatta. 349-238-6666, ma soprattutto al telefono 800-24-0024 per parlare di cittadinanza, di come avete preso la cittadinanza italiana, o altrimenti, se siete italiani, come avete preso quella estera, esattamente come ha fatto Gabriella, che nel 1970, era il 70, ha preso e è nata negli Stati Uniti. Pronto Gabriella? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene. Era il 70, giusto? Yes, il 1 ottobre del 70, il giorno che dei funerali di Jimi Hendrix. Sono atterrata a JFK. Però tu sali sul treno a Roma, quello che ci racconti, quando? Sì, salgo sul treno a Roma, sempre il 1 ottobre del 70, che è un treno che mi portò a Lussemburgo, e da lì presi un aereo andata, senza ritorno, per $150. Senti, avevi 20 anni, sei rimasta, yes. Adesso sei tornata in Italia, giusto Gabriella? Sì, sono a Roma. E che lavoro fai, se posso chiederti? Ah, certo, come no, ti sto parlando da uno studio di montaggio della RAI Radio Televisione Italiana. Che non so se si può dire Radio 24. Si può dire? No, sto scherzando, ovviamente. E fai la, sì, fai la regista? Faccio la regista di promozione dei programmi RAI. E allora, vado a ritroso, parto dalla fine. Perché sei tornata in Italia? Io in effetti non credevo questo fosse un ritorno, volevo prendere un distacco dall'America e avevo una premonizione tremenda dell'odio che aumentava verso gli Stati Uniti. Poi ci furono le Torri Gemelle, ma io sono venuta prima, quindi poi ci sono rimasta in Italia. Cioè, avevo anche una mamma che non vedevo da tanti anni e forse dopo ho capito che forse la ragione del mio ritorno era starle vicino. Beh, alla fine guarda, si dice, no, che si, ci si muove, esatto, per due motivi, per lavoro o per questioni sentimentali o familiari. Però mi racconti com'è stato l'iter per prendere la cittadinanza americana? Perché era già complicato allora come lo è adesso o era un po' più semplice? Probabilmente era, adesso c'è una lotteria. Prima era forse più complicato. Io ho preso, sono andata con un visto da turista che poi si è tramutato in un visto da studente perché ho frequentato i corsi della New York University di cinematografia. E quindi mi sono accorta, stando lì, che non volevo assolutamente tornare in Europa. Però il visto scadeva, certo. E a quel punto io frequentavo un ragazzo molto dolce, un americano, e quando gli ho detto che sarei dovuta andare via, ci siamo guardati negli occhi e vi siete sposati. Yes. È venuta anche mia madre. Ah, quindi di fatto tu l'hai ottenuta in quel modo lì, cioè sposando la persona con cui stavi. Ci volevamo bene, stavamo sempre insieme, insomma, perché tanto che differenza fa? Stiamo insieme, così era impensabile per noi. Certo. Lasciarci per un visto, capisci? Certo, guarda, questo è un discorso che facevo con un amico italiano qualche giorno fa, che ha una fidanzata che è europea ma è extracomunitaria, no? Nel senso che è russa, e gli dicevo sposala, e lui mi diceva ma certo che la voglio sposare, però mi dà fastidio mi dà fastidio doverlo fare perché qualcuno mi obbliga a farlo, quindi capisco quello che dici, però capisco anche che appunto per molti in realtà, ma lo saprai meglio di me, per molti è diventato un scamotage, no? Quello di pagare per sposare gente. Ma per molti poter... pagano, certo. Esatto. Molti, adesso però è molto rischioso e non credo che sia una soluzione. Lungi da noi consigliarla. Andiamo al giuramento. Quando hai fatto il giuramento, tu devi recitare una formula, giusto? Assolutamente, il giuramento l'ho fatto nel 1980, penso, 79-80, ero già trasferita a Los Angeles e eravamo in un teatro di Los Angeles, downtown, con una folla di 1500 persone, tutti di origini asiatiche, russi, insomma molto scuri. Sì. L'America stava cambiando colore. Sì. E recitavamo con il giudice la Pledge of Alliance, cioè il giuramento che si fa con la mano sul cuore. E cosa dice più o meno? Non te lo chiedo tutto, ma la sostanza. Si giura praticamente fedeltà agli Stati Uniti d'America e si giura anche di impugnare le armi per difendere questo, il nostro paese. Senti Gabriella, proprio a proposito di armi, c'è un passaggio del tuo racconto che io ho notato, ma l'ho rinotato anche adesso mentre leggevo. Tu a un certo punto dici che in quel periodo, c'era un periodo terribile in Italia negli anni 70, dici l'aria è impregnata di paranoia, ho talmente tanta rabbia che se non scappo sparo. Well, can I tell you that adesso mi sento come mi sentivo allora. Ah, diciamo che il clima, no, spero non sia quello però fuori dalla tua anima, insomma. No, sono molto più saggia, ma avevo 20 anni e è molta rabbia dentro, sì, perché ero negli anni 70, per una donna era tutto molto più complicato. Quindi io volevo la mia vita, non volevo fare la routine della vita delle donne, sì, che vedevo intorno a me. Questo era chiaro, che avevi voglia di fare una vita più indipendente. Vedevo dei no dappertutto, cominciando, certo, dalla mia famiglia. Quindi ero, sì, avevo molta rabbia. Gabriella, e poi ti lascio tornare a lavorare, ti saluto. Cosa fai? Resti o vai? I don't know, il sentiero, okay. Il mio sentiero continua a muoversi. Va bene, in bocca al lupo per la tua strada allora. Grazie. Ciao Matteo, Gabriella. Anche a te in bocca al lupo, grazie. Ciao, ciao, ciao, buona giornata. Voi siete qui. È una bellissima donna Gabriella nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito della radio di Radio 24, pagina di Voi Siete Qui. È bionda con dei riflessi un po' rossi, ha una bella sciarpa di, boh, direi di seta, è color sabbia al collo, ha degli orecchini di perla, c'è un prato verde dietro di lei e ha veramente un bellissimo sorriso. Cittadino. Sostantivo maschile. Chi partecipa dei diritti e dei doveri sanciti dalla legge di uno Stato o anche di una città. Primo cittadino, il Presidente della Repubblica o in una città, il Sindaco. Etimo, sostantivo dall'aggettivo cittadino. Data, secolo XIII. 349-238-6666 ma anche 800-24-0024 per raccontare il modo in cui avete preso la cittadinanza qui o altrove. Qualcuno mi scrive: ciao, mia figlia è nata a Chicago, quindi è americana. Io sono italiano, mia moglie è nigeriana, ora cittadina italiana. La bambina è in Italia col permesso di soggiorno. Per trascrivere il certificato di nascita devo fare una pratica complicata e costosa con il consolato d'Italia a Chicago. Gli italiani non aiutano gli italiani, mi puoi aiutare? Guarda, io no, posso solo leggere questo SMS. Ci sono delle persone che vengono elette abitualmente e che dovrebbero fare questo di mestiere. Tina scrive: in Cina organizzano viaggi del parto per far nascere figli in America. 20.000 euro, nel prezzo è inclusa la documentazione tutta, i bimbi avranno tutti i diritti di ogni cittadino. Sì, vabbè, perché lì non so se è vero, un po' sui cinesi ci sono un po' di leggende che girano. Cosa ha a che fare con lo ius soli, per cui se nasci negli Stati Uniti sei cittadino americano. In Italia questa cosa non c'è, anche se mi pare che qualcuno la stia provando. 800240024, andiamo da qualcuno che dov'è? Due settimane fa è diventato cittadino italiano. Mohamed da Livorno, pronto Mohamed? Pronto, ciao Matteo, ciao. Sono Mohamed, sono della Costa d'Avorio. Bravissimo, io sono Matteo, sono di Lomentino. E io abito, sono di Trecate, vicino a Novara. Ma certo, come no, sei mio vicino di casa praticamente. Sì, sono un autista, un camionista, sono qua da 20 anni. Uh-huh. Ho fatto la domanda della cittadinanza nel luglio del 2008. Tra l'altro hai le quattro frecce accese o sbaglio, Mohamed? Sì, perché sono un autista di camion cisterna, mi sono accostato. Bravo, ok. Acceso. Ok, perfetto. Quindi dicevi, 2008 hai fatto richiesta di cittadinanza? Sì, ho aspettato 4 anni 6 mesi. 4 anni 6 mesi? Ho fatto il giuramento al comune di Trecate. Guarda, è stata una festa, ho detto a mia moglie di non portare i bambini a scuola. Ho chiamato un fotografo di Trecate. Ho fatto, guarda, una festa che non ho neanche idea, una bellissima cosa, Matteo. Lo immagino, senti, che cosa hai dovuto fare? Un giuramento? In cosa consiste? Sì, mi hanno dato un foglio di memorizzare, sì? Di leggere, sì? Che giuro di essere fedele alla Costituzione italiana. Certo. E di rispettare le leggi, no? Sì. E poi io, al giorno, il sindaco ha letto un sacco di documenti, mi ha fatto firmare, e poi io ho messo il mano sul cuore. Sì. L'altro alzato e ho fatto il giuramento. Guarda, è stato il giorno più bello, guarda, della mia vita. Mia moglie è rimasta contenta. E poi mie figlie, tre, sì, nati qua, due giù in Africa. Sì. Quelli tre sono diventati automaticamente italiani. Ah, ok, cioè i tre nati qui. Certo, capito. Perché tu adesso sei italiano. Devono aspettare 18 anni e poi possono fare richiesta. Infatti, e poi io volevo ringraziare chi ha creato Radio 24, Matteo. Va bene, allora per interposta persona ringrazierò, che ne so, Confindustria, ringraziamo loro, Mohamed. Senti, che cosa trasporti? Io trasporto merci pericoloso, merci corrosivo, l'acido, tutte sostanze corrosivo. Ma come la vivi questa cosa, Mohamed? Oh, guarda Dio, io dall'Africa che sono sul camion, sono praticamente nato sul camion, mio papà ha fatto sempre autotrasportatore. Ok, io quindi arrivato qua. È di famiglia proprio. Mohamed, ti ringrazio molto e viva l'Italia, mi verrebbe da dire. Puoi dire 100.000 volte, Matteo. Grazie, grazie a Dio, grazie all'Italia. Ciao Mohamed. Ciao, grazie. Ma anche quando vince la nazionale dico viva l'Italia. Andiamo a Belluno da Genti. Pronto Genti? Giusto, Genti. Ciao, sei albanese? Ciao. Sono albanese. Albanese, sì. Ok. Genti è un nome comune, giusto? È come... Sì, è un nome pure albanese. Okay. È il nome di un nostro re tanti, tanti anni fa. Senti, quando sei arrivato in Italia, Genti? Sono qua dal 2000-2001. E hai già chiesto la cittadinanza? Ho chiesto cittadinanza giusto 2 anni e mezzo fa, esattamente, praticamente io sono in attesa di cittadinanza di... E? I requisiti che ho fatto apposta, praticamente bisogna avere 10 anni di residenza qua in Italia. Uh-huh. E sì. E stai aspettando, insomma? Sto aspettando. Che... Io praticamente sentivo prima il... Mohammed. Sì, sentivo prima, non so neanche cosa devo fare, se... So che bisogna andare al comune a fare giuramento. Guarda, gente, io non so dirti cosa tu debba fare, però secondo me qualcuno l'ascolta, una mano ce la può dare. Ti ringrazio, in bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao. Andiamo, aspetta, Yonel da Asti. Pronto, Yonel? Pronto. Buonasera, Matteo. Buonasera. Da dove vieni, Yonel? Che nome è il tuo? Io sempre dall'Albania. Ok. Sempre. Okay. Tu sei già cittadino italiano? Sì, sono già cittadino da 2 mesi. Ah, ma è fresca. Hai fatto festa come Mohammed? Sì, sono fresco, eh. Che cosa ti hanno chiesto in comune? Allora, in comune niente, non mi hanno chiesto niente, ho fatto il giuramento, come ha detto già Mohammed, e sono stato molto contento. Ma il giuramento, la formula che lui diceva, ti danno un foglio da leggere, tu non devi imparare a memoria. Ti danno un foglio da leggere e io ho letto sto foglio, così sono diventato molto contento. Volevo dire che ho aspettato da tempo, io da 96 che sono in Italia, e praticamente ho fatto la domanda 98 mi sembra. Sì. E ho aspettato 6 anni, questo volevo dire, 6 anni per diventare, dopo che ho fatto la domanda, 6 anni per diventare cittadino italiano. Lo so, Ione, guarda, è che siamo fatti così, siamo un po' lenti, ma alla fine ci arriviamo. Però alla fine sono riuscito a avere sto cittadino, era un puzzle che ci mancava nella mia vita. Ci mancava un tassello. Ione, che lavoro fai? Io sono cuoco. Sei cuoco dove? In un ristorante? Sono ad Asti, ristorante, lavoro già da 17 anni. Qual è il tuo piatto? Lo sapevo. Scusami, sono di una banalità devastante, Yonel, c'hai ragione pure te. Però dimmi qual è il tuo piatto, quello che fai meglio. E allora, faccio un filetto flambé, praticamente coperto di prosciutto e panna, e il metodo di fiamme, è una meraviglia che piace a tutti. Ti ringrazio, Yonel, in bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao, buona giornata. Andiamo a Bologna da Isidor. Pronto, Isidor? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, tutto a posto. Anche tu sei albanese? Sì, esatto, infatti stavo per dire, sono il terzo, c'è una sfilza incredibile, quindi... Però c'è l'accento bolognese praticamente. Sì, parecchio, anche perché io poi sono una specie di adottato, siccome è da tanto tempo che sono qui, dal 90, quindi anche l'accento ha preso del tutto quello che è, poi tra l'altro più che italiano è bolognese. Ecco. Che cosa fai nella vita, Isidor? Io faccio l'impiegato, lavoro in una ditta che vende guarnizioni, anche qui ormai da quasi 20 anni. Come sei arrivato in Italia? Io sono arrivato con un visto normale con i miei genitori, che era già difficile allora trovare i visti perché comunque il paese era ancora in una fase di confusione totale. Mm-hmm. Mio padre fu molto capace ad avere questa possibilità, a trovarla subito e portarci in Italia. Da lì in poi ci siamo sistemati nel giro di un anno. Devo dire che anche la città stessa di Bologna allora si stava molto bene e il comune ci ha dato una mano, ci ha sistemato molto presto. E da quanto sei sposato? Con una ragazza italiana, giusto? Sì, sì, io praticamente sono sposato dal 99, ho una figlia di 14 anni che è praticamente più alta di me, quindi è da tanto tempo. Ecco. Isidor, ti ringrazio, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te. Ciao, buona giornata. Prendiamo l'ultima telefonata da Verona, Hassan. Che non credo sia albanese. Pronto, Hassan? No, non è. No, o non è albanese o non è in Italia. Però. Ha messo giù 349-238-6666. Oggi si è parlato di prendere la cittadinanza italiana. Non ho ancora capito bene esattamente quanto tempo e in base a cosa la si prenda. Però abbiamo capito che ti danno un foglio dove devi giurare fedeltà alla patria. Io non l'ho mai fatto. Cioè, io dico, quando è al battesimo ti fanno giurare fedeltà? Prima comunione? Ma che ne so, alla Repubblica. Vabbè, abbiamo finito. No, al battesimo è difficile. Abbiamo finito, grazie a Tiziano Bonini, Margherita Ina, Paolino Corleoni e Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Gabriella e anche lei è un punto rosso su una mappa. Alex di Vicenza e la storia di domani è la mia. Parla di un'esperienza di vita vissuta che mi ha fatto provare tantissime cose, che mi ha cambiato la vita. Questa è la mia storia e io sono qui.